Torna a Bologna la 13ª edizione di Birrai Eretici, il festival che porta proprio qui a Bologna una selezione tra i pub migliori d'Italia e non solo. E io appunto sono qui a parlarne con Andrea e Gabriele, che sono parte dello staff dei Birrai Eretici. Quindi partiamo dalle informazioni fondamentali: dove e quando trovarvi. Quest'anno si svolgerà il 23, 24, 25 maggio. Ci troveremo al parco di LF in via Serlio 25/2. Per intenderci, è il parco dove c'è l'Arena Puccini, il Locomotive e il Chinotto. Noi ci troveremo nella piazzetta adiacente tra il Locomotive e l'Arena Puccini, dove occuperemo appunto tre spazi diversi dove dislocheremo appunto i vari pub e i vari stand del cibo. Che cosa si potrà trovare e qual è il programma del festival? Dunque, come gli altri anni, principale attore del festival sarà la birra, principalmente la birra artigianale, anzi specificatamente, e illustrata dai vari publican, per cui ogni pub avrà un suo stand, sarà possibile consumare le birre proposte da ogni publican, appunto secondo la sua selezione, e inoltre ci sarà la possibilità di avere vini naturali allo stand di Birrai Eretici, e ci saranno anche tantissimi punti food come gli altri anni. Ok, quindi festival aperto a tutti, anche ai bambini, giusto? Piccoli, grandi, a tutte le famiglie? Assolutamente sì, perché tutti gli anni noi organizziamo dei laboratori di intrattenimento principalmente, alcune volte anche interattivi, per permettere ai bambini di venire lì, divertirsi, e specialmente permettere ai genitori di potersi divertire anche loro, lasciando i bambini tranquilli con delle attività appunto ludiche di buona qualità. E vi chiedo un po' la storia di Birrai Eretici, se volete raccontarci come nasce e quando. Se non mi ricordo male, nacque nel 2010 all'interno dell'Ortica, e su spinta di un'associazione di homebrewer, quindi di persone che facevano la birra in casa, che si chiamava Brew Lab. E i primi due anni abbiamo fatto il primo anno all'interno del locale, poi dopo lungo la via, e poi dal terzo anno, che ha preso la forma che ha tuttora, e abbiamo iniziato un girovagare di posti dove abbiamo iniziato a chiamare pub di Bologna ma anche di altre città, fino a quando poi abbiamo trovato casa nel parco appunto in via Serlo, il parco del DLF, grazie alla collaborazione con i ragazzi del Locomotive. Vi chiedo come partecipare, cioè ci si deve prenotare i biglietti, come funziona l'ingresso? Allora, l'ingresso è gratuito, la consumazione però all'interno del festival delle birre è vincolata al bicchiere dell'edizione, che è acquistabile alle casse con, diciamo, i principali metodi di pagamento, per cui Satispay o carte oppure contanti. Sempre alle casse si possono prendere i gettoni con i quali pagare sia il cibo che le birre o il vino, insomma. Si paga tutto con i gettoni, oppure da quest'anno c'è la possibilità di pagare agli stand, per cui le consumazioni, tramite Satispay. Già che ci siamo, vi diciamo che se vi registrate con il codice Birrai Eretici 15 seguendo le istruzioni, potrete avere appunto 15 euro di bonus. C'è anche la possibilità di fare prevendita, per cui tramite il nostro sito poi trovate tutte le indicazioni anche nei social, e per cui acquistare già un pacchetto con gettoni e bicchiere per saltare la fila. Ok, quindi le informazioni principali sono queste, ma per altre informazioni ci volete lasciare i vostri social per seguirvi in altri eventi anche? Sì, abbiamo birraieretici.it, che è il nostro sito, altrimenti trovate sotto Birrai Eretici sia su Facebook che su Instagram, che vengono costantemente aggiornati. Su Facebook trovate anche proprio la pagina dell'evento con le maggiori informazioni. Con questo noi vi lasciamo, vi aspettiamo venerdì 23, sabato 24 e domenica 25 maggio al parco DLF per il festival appunto di Birrai Eretici, quindi una festa, birra soprattutto e tanto divertimento.